24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Io penso che ci sia un errore madornale accettare di votare esattamente quello che chiede il Partito Democratico di Renzi. È un modo per svendere un'esperienza, una storia, una posizione. Io sono convinta che Berlusconi parteciperà alle elezioni del Presidente. Quindi senza di lui non si può fare. Nell'accordo che hanno fatto per questa svendita completa delle posizioni del centrodestra c'è anche un nome. È un nome che è stato anche concordato la sera prima con Amato, con Alfano. Nessuno dei nomi sul tavolo. Nel lapsus è venuto fuori il nome. L'unica cosa che non potremmo accettare è che gli italiani siano rappresentati nel nome di accordi o presunti accordi fra Renzi e Berlusconi. Abbiamo ovviamente anche approfondito alcuni temi di carattere politico nel rapporto fra Forza Italia e NCD, quindi è un bel inizio di percorso, un bel confronto con la promessa di rivederci. È un patto per il Quirinale. Onorevole Nunzia Di Girolamo, buongiorno. Capogruppo NCD UDC alla Camera, lei è stata la grande sponsor di questo incontro tra Alfano e Berlusconi, soddisfatta? Ma direi di sì, sarei ipocrita a dire il contrario. Ascoltando il riepilogo che ha fatto, immagino che i cittadini percepiscano la confusione soltanto di questi anni e... Sicuramente è stato molto difficile, ma sono soddisfatto. Ha sentito in chiusura, Alfano dice: il colle è solo l'inizio, il figlio prodigo che torna a casa. No, noi siamo in una fase di inizio, un punto di partenza. Questo è un patto per il colle, come l'ha definito Alfano, e penso che sia un buon inizio per il centrodestra. Senta, se ne erano detti di tutti i colori però Alfano e Berlusconi, in politica non conta niente, eh? No, hanno dimostrato senso delle istituzioni, senso dello Stato. Hanno superato incomprensioni personali nell'interesse di un obiettivo più grande. Senta, che è quello di scegliere. Anche umanamente c'è stato un salto di qualità? Questo non saprei dire. Non lo so. Senta, Berlusconi col sostegno all'Italicum è tornato a essere il dominus della politica. In sostanza è così. Ma è uscito qualche volta? Ah, bene. Senta, Berlusconi, la scelta però è costata, così sembra, la rottura con Fitto. Una rottura vera oppure una rottura tattica? Ah, guardi, io credo che essendo Fitto un bravo politico sia una rottura tattica. E poi conoscendo Berlusconi non sarei sorpresa di nulla. Quindi niente Fitto fuori da Forza Italia, diciamo. Ma credo proprio di no. Quindi quella del Quirinale comunque è la partita 2 tra Renzi e Berlusconi, onorevole Di Girolamo? È una partita nella quale sicuramente oggi la posizione di Renzi cambia notevolmente. Si è rovesciato il tavolo, insomma, in qualche modo. In un qualche modo sì, perché Renzi non ha più la maggioranza nel suo partito. Senta, ma ieri è nato il partito del Nazareno, secondo lei? Secondo me è nato il patto della nazione che porterà il presidente della nazione. Presidente della nazione sicuramente, ma poi anche al partito del Nazareno oppure no? Ma guardi, il tempo, diciamo che sia Berlusconi che Renzi sono imprevedibili, da entrambi io mi aspetto tutto. E a proposito di imprevedibilità, come lo vede il profilo del futuro Presidente della Repubblica lei? Guardi, io vedo una persona che rottami e che possa rottamare definitivamente la guerra civile di questi anni e che sia la bandiera dell'Italia e non la bandiera del suo partito, che è la ragione per la quale noi non vogliamo uno del Partito Democratico. Ma uomo o donna? Non fa differenza? È indifferente. L'importante è che abbia un senso di equilibrio che non sempre i presidenti della Repubblica di questi anni hanno avuto. Senta, ma resta Salvini, quindi il leader del centrodestra, resta solo lui? Ma bisogna vedere cosa intende Salvini per leader e cosa intende per centrodestra. Un leader include, beh, sicuramente. Non include. Il centrodestra non è la posizione della Le Pen. Però naturalmente la sua avanzata nei sondaggi è esplosiva. Non c'è dubbio, gli va riconosciuto che è un ottimo capo di partito e che ha una grande capacità di comunicazione, però fare il leader è cosa diversa. Berlusconi è stato un grande leader perché ha tenuto insieme tutto il contrario di tutto. Senta, ma dopo questo ribaltone politico, le elezioni in primavera, lei a quanto le dà? 50 e 50. 50 ci siamo, insomma, più o meno. Senta, ieri Renzi a Davos ha detto che è il momento del carpe diem. Ecco, ma il carpe diem non assomiglia molto al tiriamo a campare di Andreotti? Ma a me mi ricorda più il giorno per giorno di Ligabue. Mario Secchi, una domanda? Buongiorno. Allora, buongiorno. Una domanda su 2015. Il governo, il patto del Nazareno tiene, però tiene anche sulla base, diciamo così, del fatto che prima o poi ci sarà la ripresa. Vabbè, senza voler passare per gufi, ma e se non c'è, il governo tiene? Beh, se non c'è, innanzitutto non tiene l'Italia, e quindi bisogna assumersi le decisioni conseguenti. Noi abbiamo sempre detto che il nostro accordo si regge su un patto di programma e non su un'alleanza strutturale con il Partito Democratico, e se quelle cose che ci ha promesso Renzi non saranno fatte, non regge. E se le cose non arrivano, dunque non regge. No, non regge. Pietrangelo? Buongiorno. Buongiorno. Farei una scenata di gelosia, visto che lei va a fare le trasmissioni radiofoniche. Altrove. Col Matteo Verde, diciamo. Così è stato. Sì, sì, sì. Se ci tradisce. Sì, ero intervistata da Matteo Verde. Ci tradisce, vabbè. Detto ciò, una domanda. È bravo, c'ha un futuro, ha ragione Berlusconi, che bravo sta radio. Detto ciò, una domanda. Visto che il patto del Nazareno è diventato il partito del Nazareno, lei si iscriverà? Ma chi le dice che non sono già iscritto? C'erano già le tessere pronte. 800, grazie onorevole Di Girolamo, 800 24 00 24, numero verde SMS 349 238 6666. Ci occupiamo prevalentemente di tasse e patrimoni. I nostri clienti sono molto ricchi. Abbiamo reciprocamente dei segreti. Manterrò nel più stretto riservo e custodirò inviolati i segreti del mio cliente. Quanto costa regolarizzare il conto segreto in Svizzera? La voluntary disclosure è legge. Arriva nel nostro ordinamento una disciplina che regola quindi il rientro dei capitali dall'estero. Un via libera definitivo che introduce nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio. Ce l'hai il numero di conto? Sai come arrivarci? Il mondo della private banking si mobilita per sostenere la clientela, per gestire l'arrivo delle risorse nel paese. Il nuovo accordo fiscale fra Svizzera e Italia è pronto. Ho solo pensato che fosse importante per me conoscere a fondo la precisa collocazione e composizione di tutte le vostre proprietà e attività. Io saprò già tutto, fino all'ultimo penny, marco, franco e sterlina. Ecco, come avete sentito, parliamo di capitali evasi. La legge di stabilità contiene il provvedimento che consente ai contribuenti di dichiarare volontariamente attività o beni fino ad oggi non dichiarati e di fare quindi pace con il fisco italiano da una parte e dall'altra parte permette allo Stato di recuperare quel capitale sommerso che oggi più che mai serve alle casse del Paese. Ecco, quante volte in Italia sono stati adottati gli scudi fiscali? Noi abbiamo fatto un'indagine, sono stati adottati 3 volte, nel 2001, nel 2002 e nel 2009. In tutti e 3 i casi il contribuente godeva dell'anonimato, mentre questa volta questa dichiarazione volontaria con l'anonimato non c'è. Con questi 3 scudi sono stati rimpatriati circa 150 miliardi. Un'altra grande differenza tra gli scudi del passato e quello di oggi, in vigore dal 1 gennaio, sono le sanzioni. Nei primi 2 scudi fiscali, chi riportava il suo patrimonio in Italia doveva pagare il 2,5%. Nel caso dello scudo del 2009 si pagava fino al 5%. Oggi, invece, le sanzioni sono più alte perché chi vuole uscire allo scoperto e mettersi in regola dovrà pagare in un'unica soluzione tutte le tasse evase, più gli interessi e infine una sanzione aggiuntiva. Sanzione che varia a seconda dei casi. Ecco, l'unico paese europeo che non prevede questa sorta di pace fiscale tra Stato e evasori è la Grecia, che però sta per adottarlo. Ecco, Guglielmo Maisto, professore associato di diritto tributario internazionale comparato all'Università Cattolica di Piacenza. Professore,

devo dire che il tema riguarda in larga parte le persone fisiche, perché la disclosure viene fatta proprio per riportare in Italia i capitali delle persone fisiche ed è la sommatoria anche di piccoli patrimoni che poi fa i grandi numeri anche ai fini del, certo, del gettito e della massa di disponibilità detenute all'estero. E se... quindi questo è un po' l'obiettivo, direi, il principale del provvedimento. Professor Maestro, senta, il Presidente della Commissione Europea, Juncker, ha dichiarato di voler lavorare per la trasparenza fiscale in Europa. È credibile Juncker su questo piano dopo lo scandalo LuxLeaks, cioè dopo che il suo governo ha segretamente approvato le norme che offrivano agevolazioni fiscali a molte multinazionali straniere? Che credibilità può avere Juncker? Ma Juncker non fa che esprimere quella che è un'opinione politica condivisa un po' da tutti gli Stati membri dell'Unione e anche dal G20, che ha attivato una serie di iniziative proprio volte a evitare la riduzione delle imposizioni sulle multinazionali. Quindi, sì, ma sono due cappelli nella stessa partita, insomma, dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ma direi che la lotta alla mafia affidata a Totorina. Sì, però la competenza delle questioni fiscali è rimessa al commissario alla fiscalità. Una foglia di fico. Credo che sia ineluttabile che Juncker, nonostante diciamo il suo passato, deve necessariamente far fronte con provvedimenti come quelli relativi allo scambio di informazioni sui rulings, cioè sulle disposizioni amministrative che in passato hanno favorito. Cioè, quindi scusi, per detta in due parole che capisco anch'io. Allora, il passato non conta, hai agevolato l'evasione fiscale, beh, pazienza, fine. Sì, il suo passato lascia il passo a un orientamento politico della Commissione e alla quale lui deve sostanzialmente cedere. Cedere ma resistere nella sua posizione, insomma, diciamo. Vedremo dei, ecco. Ci sono varie iniziative che la Commissione ha già attivato, vedremo se... Dato che lei, professore, è molto diplomatico, che impressione ha? Può resistere in quel posto? Io penso di sì, soprattutto se le iniziative saranno iniziative efficaci da parte della Commissione e se il Consiglio le approverà rapidamente, credo che grazie anche agli interventi degli Stati membri più importanti e gli interventi dell'OCSE potrà riacquistare una credibilità che in parte aveva perso a seguito di queste informazioni che sono state poi disseminate, diciamo, tra il pubblico e i cultori della materia. Senta, professor Maestro, un'ultima domanda. Lei rappresenta la Confindustria all'OCSE. Ecco, in questa partita può dare un contributo l'OCSE? L'OCSE sta lavorando da ormai 2 anni su tutte le misure di erosione della base imponibile, di riduzione della tassazione delle imprese multinazionali in modo evidentemente illecito, perché la pianificazione fiscale poi entra a certi limiti illecita. Vi sono iniziative che sono arrivate ormai a maturazione, dentro settembre 2015 saranno poi conclusi questi lavori che poi si tramuteranno in norme dei rispettivi paesi e questo affiancherà i lavori della Commissione dell'Unione Europea. È un trend che ormai è ineluttabile sotto questo profilo di un contrasto a queste forme di elusione fiscale internazionale. Mix 24. Pietrangelo. Bella sì, cade a fagiolo, perché stamattina niente metropolitana, niente autobus, stamattina era proprio un'ora antelucana a piedi lungo le strade, questo buio bagnato di un inverno dolce nel risveglio, perché c'erano le finestre, qualcuna spalancata, e da quelle bocche dei palazzi che avevano questo cipiglio serioso, le stanze se ne volavano via. andavano alla deriva puntellando nel buio le moca, il caffè latte, l'odore di buono, di vite addolcite da promesse tutte mantenute. Stamattina era così e in volo c'erano anche i cuscini con l'impronta di teste scaraventate su altre teste ed erano quelle degli innamorati, quelle descritte in questa canzone. Hotel Tivoli, non voglio che Clara, e perfino si trovavano risvegli antichi di 20 e più anni ancora e volteggiavano nel cielo per portare con la preghiera dell'alba la luce. Non voglio che Clara, il gruppo Hotel Tivoli. Mario? Io sono così. L'hotel Tivoli, la pioggia, la notte. Tutto bello. Tutto le bello. Bolle. Le bolle. Le meno bolle. Belle. Beh, visto che avete citato la pioggia, allora It's Raining Again. Super Tramp. Senti? La regia è un po' così stamattina, me l'ha data un po' poco. Segue poco. Vabbè, cosa succede? Dai, facciamo un minimo di agenda della giornata. E aspettiamo Draghi, vediamo cosa le borse hanno già macinato nelle precedenti sedute, cosa faranno oggi dopo l'annuncio, soprattutto dopo i dettagli del piano. Perché è vero, sono stati largamente anticipati, soprattutto ieri, l'altro ieri, però poi bisogna sempre vedere come va soprattutto. Attendiamo un po' di dati da Wall Street, segnalo Hyundai e Starbucks, che sono due colossi mondiali, quindi ci danno una misura di come andrà l'economia, varie compagnie aeree per il petrolio, i dati dell'occupazione in Spagna, che ci interessano da vicino perché tutti dicono che la Spagna è il nostro modello, io ci andrei cauto. Cauto. Beh, sai, guarda quanti disoccupati hanno, poi facciamo i conti, insomma, non mi pare un gran modello. E politica internazionale, segnalo che a Davos parla il Sisi. Beh, molto interessante sentire quello che dice il presidente egiziano. Dopo il discorso che ha fatto al Cairo. Quindi, insomma, vediamo un po', è un elemento di stabilità o instabilità l'Egitto, come sempre. L'Italia, vabbè, ce lo dirà anche Pietrangelo dopo. Discute del canguro. Salamino! Della commedia, per esempio, Giancarlo Magalli ha vinto le Quirinarie organizzate dal Fatto, ma succede che tutto questo copione segue un suo ritmo. Per esempio, ascoltate. Super canguro, sinceramente non ho capito bene cosa sia questo canguro, se non, sì, certo, saltare, cioè praticamente ho visto in una vignetta, credo oggi sul Corriere, dove c'è Renzi canguro e dentro la sua saccoccia c'è Berlusconi che arriva. Ma andiamo avanti, perché questa meravigliosa Italia che dal patto del Nazareno arriva al partito del Nazareno, che cosa fa? Di un Renzi che sotto sotto vorrebbe trasformare Montecitorio in un'aula sorda e grigia, che si affida a Gianni Cuperlo, e lo racconta benissimo oggi Ceccarelli sulla Repubblica, evocando un personaggio particolare. Ti voglio dire una cosa, Baldo: un cane non può fare questo viaggio da solo, ma forse un lupo sì. Un cane, il cane Balto non muove il lupo, sì, e già ieri con Augusto Minzolini avevamo fatto nostro un passaggio epocale, cioè il passaggio dal... No. Prova Tafazzi! Dai, dai! Prova! Dal tafazzismo al... E andando furiò la spada all'aria e dese un corpo d'accostamento al pupazzismo, al combattimento dei pupi. Però a leggere sempre questo pezzo di Ceccarelli viene fuori l'entusiasmo di una scuola materna nell'apoteosi, nell'euforia tutta, scusate la parola, anale, perché giustamente è stato battezzato Merdinellum da Stefano Candiani. Una truffa, un inganno, è sempre in affanno. La merda è presenza, l'arte evanescenza. Lo sterco si basta, l'arte cerca conquista. Sarà oggi ha intervistato uno degli agenti del cambiamento che vi presentiamo settimanalmente, cioè uno dei nuovi mille. Sigla. E sono gli agenti del cambiamento, i nuovi mille. Noi a Mix 24 raccontiamo le loro storie. Una è quella di Pierluigi Paoletti, toscano, presidente e socio fondatore di Noinet. Ma Paoletti, che cos'è Noinet? Una vera e propria infrastruttura di rete che mette in connessione le persone e crea una rete di telecomunicazioni dove la banda larga è un servizio che viene dato a tutti indistintamente e non c'è più il digital divide. Ma fisicamente cosa ti arriva a casa? Come lo prendi il segnale? Attraverso il wifi noi connettiamo i tetti, poi dai tetti scendono dei cavi dati che naturalmente arrivano nelle case di tutti i nostri soci che sono anche abbonati. E questa è la particolarità di Noinet, che con un cavetto connettete il cliente, diciamo. Ecco, e il cliente non è più solamente un cliente che percepisce un servizio, ma diventa comproprietario della rete di telecomunicazioni, che a quel punto è una vera e propria rete pubblica che non è statale, ma è delle persone che ne fanno parte. Cosa che tra l'altro dovrebbe essere internet è l'interconnessione fra le persone. No? Ma quindi voi che cosa date di più rispetto alle altre connessioni internet? Attualmente noi diamo una rete simmetrica, ovvero sia la stessa velocità in download e la stessa velocità in upload. Cioè la stessa velocità per scaricare o per caricare qualsiasi cosa, video, perfetto, musica. Perfetto. E questo ha una resa totalmente diversa e che rende questo strumento, questa connessione molto affidabile anche a livelli professionali. Infatti basti dire che una connessione simmetrica per le aziende, anche di minima entità, viene fatta pagare dai monopolisti molte centinaia di euro. E invece voi quanto costate? 20 euro al mese. E per adesso quanti utenti avete? Beh, o soci o comproprietari? Siamo in fase di startup, sì, e stiamo crescendo in maniera esponenziale. Attualmente siamo 200 soci connessi alla rete romana. Ma come fate a trattare i dati personali? Cioè come garantite che i vostri soci siano tranquilli? Perché voi raccoglierete piano piano tantissimi dati sensibili, no? Ecco, questa è un'altra particolarità della neutralità della rete. Noi abbiamo tutte le autorizzazioni, ovviamente ci atteniamo a tutto quello che è la legislazione italiana in tema di autorizzazioni e trattamento dei dati. Per quanto riguarda invece l'invasività del provider nelle scelte di navigazione dell'utente, ecco, qui noi siamo perfettamente neutri, cioè nel senso che non intercettate i gusti dell'utente. Loro decidono le regole e se questa rete non gli piace loro scelgono anche di cambiarla in meglio, e questo naturalmente oggi non ci è consentito con il rapporto monopolista o diciamo grande gestore e cliente, ma invece è possibile nella nostra rete di interconnessione delle persone. Paoletti, lei ha lavorato per anni nel mondo della finanza, poi ha cambiato completamente filosofia di vita, mi sembra di capire. Ma che cosa ha provocato questa redenzione? Proprio lavorando nella finanza io sono entrato nei meccanismi profondi di questo sistema e ho visto che questo sistema produce solamente sopraffazione e divario ovviamente fra le persone, quindi tutte cose che naturalmente non andavano in contrasto con quello che era il mio essere profondo, per cui a un certo punto mi sono chiesto se questa era la vita che volevo fare, e ovviamente ho dovuto rispondere e sinceramente ho detto di no. E allora a questo punto mi sto dedicando alla costruzione di reti e sistemi che possano ricostruire le economie locali specialmente. Per approfondire l'esperienza di Pierluigi Paoletti dovete solo digitare www.italiachecambia.org. Mix 24. canzone Nuovi Mille naturalmente ce lo chiedono, era cantata dal rapper Luca Ariello. Alessandro, dico, se ci fai delle domande noi ti rispondiamo, intanto una bolla. Cavallo di battaglia di Simple Minds, oggi mi sento così, dai. Allora, a Davos succedono un po' di cose interessanti, molta fuffa, però anche ogni tanto delle cose concrete. E una riguarda ovviamente il mercato del petrolio, con il big drop del prezzo, che insomma è crollato in sei mesi, quasi il 50%. Allora, la cosa più interessante in questi giorni, in queste ore, l'ha detta un italiano, è Claudio Descalzi, è la D dell'Eni. E, insomma, è interessante perché parla delle conseguenze impreviste di questo scenario che è mutato. Noi a Mix 24 l'abbiamo detto tante volte che le compagnie petrolifere, a causa del crollo del prezzo, stanno tagliando gli investimenti, certo. Ci sono stime per $1 trilione. E come vedete le cose non vanno valutate, le cose non vanno valutate così nel brevissimo periodo, bisogna avere prospettiva, futuro. Salamino! Andar per il vasto mar, ridendo in faccia monna morte dal destino. Ridendo in faccia monna morte dal destino, l'inno glorioso dei sommergibilisti. E bisognerebbe ascoltarlo un po' più a lungo, ma comunque succedono queste cose. Allora, la Lettonia vieta la lingua russa sul luogo di lavoro. Perché, Mario, tu lo sai, ne parli sempre, appunto, la russofobia dilaga nelle repubbliche baltiche. Comunicato ufficiale, Giovanni, del governo. È scandaloso, dice questa nota governativa, che funzionari pubblici e privati conversino in una lingua straniera. Detto, per inciso, la Lettonia è abitata al 30% da russi e il 45% della popolazione considera la lingua di Dostoevskij la lingua madre. Che non è proprio una lingua brutta, no, certo, una grande lingua. Però vi devo dire una cosa: ieri per strada mi sono trovato davanti un grande manifesto, una gigantografia, un poster, non so come definirlo, comunque poteva un manifesto, insomma, sapete che cos'era? No. Era il manifesto della Marina Militare Italiana, scritto scritto in lingua inglese, dove si invitavano le giovani generazioni ad arruolarsi alla Marina Militare Italiana, però scritto in inglese, tanto è vero che io mi sono confuso, mi sono fermato, l'ho fotografato, ho voluto... Allora, Giovanni, tu ti ricordi, dai tempi di Antonio Trizzino c'è tutta una questione sul fatto che la Marina Italiana abbia una passione per Albione. Allora, io, Mario, direi a questo punto è una piritollata, giusto? Sì. Però, altro che ridendo in faccia a monna morte dal destino. Lo vogliamo dire, com'è lo slogan? Altro che ridendo in faccia a monna morte al destino, guarda, l'ho voluto rimuovere lo slogan. No, dai, io gli dedicherei questo frammento di Franco Battiato. Più diventa tutto inutile, più credi che sia vero, e il giorno della fine non ti servirà l'inglese. Questo è vero, però lo slogan è be cool and join the Navy. Non so quanti, senti, va bene così. Il 22 gennaio del 44 le forze alleate sbarcano a Anzio, pochi chilometri da Roma. Si svolge una delle battaglie più cruente della seconda guerra mondiale, su fronti opposti, naturalmente tedeschi e alleati. A rancottare quello scontro sono testimoni di quei terribili giorni: John Shirley, all'epoca aveva 19 anni, e Pio Filippani, arruolato nella legione delle SS italiane, all'epoca aveva 24 anni. Sentiamo questo file che lancia la storia che andrà dopo il giornale radio. In quel tratto non c'erano tedeschi, era una trincea zigzag. E in quella trincea uccisi il mio primo nemico. Molti mi hanno domandato per quale motivo primo che mi è passato, io volevo dire, magari consciamente, noi italiani non eravamo né vigliacchi né traditori. Ecco, subito dopo il giornale radio, cura di Marina Milone, la storia dello sbarco di Anzio del 44, della cruentissima battaglia raccontata dai testimoni. E per chiudere, parole di burro di Carmen Consoli.